Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Noi oggi incominciamo andando molto lontano, dove c'è molto freddo. Sì, vi porteremo in Antartide a bordo della nave OGS Explora, che si trova nel mare di Ross. E poi invece parleremo d'Africa con un progetto molto importante per riuscire a migliorare le condizioni di salute, le strategie terapeutiche in quel grande continente. E poi cercheremo di capire come sconfiggere il problema del bagarinaggio online. Bene, via! Federico, sei freddoloso? Ma freddoloso, a meno 2, meno 3, tengo bene. E invece in questo caso ti porto dove le temperature sono molto più basse, perché stiamo per andare in Antartide, dove ci colleghiamo con la nave OGS Explora, che è impegnata nella sua 11ª campagna in Antartide in occasione della 32ª spedizione italiana in Antartide. Siamo laggiù. Siamo laggiù e siamo laggiù con Michele Rebesco, geofisico dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Buonasera Michele. Buonasera. 11 ore di fuso ci sono tra noi e l'Antartide? Sì, nella zona dove siamo noi, nel mare di Ross, siamo praticamente sotto la Nuova Zelanda, quindi siamo agli antipodi come fuso orario. E a quali temperature state lavorando adesso? Ma non è freddissimo in mare, perché mentre l'Antartide è nota per essere il punto più freddo della Terra, ma sul continente, adesso intanto siamo d'estate e poi in mare è comunque mitigata la temperatura, quindi diciamo morale c'è qualche grado sotto zero, 3, 4 gradi, 5 sotto zero, però tra vento e neve si sente questa temperatura, insomma, si sente bene. Guardando l'Antartide, il mare di Ross è quello che c'è un po' sotto, no? C'è un grande golfo. Quanto è grande questo golfo? Oltre 250 miglia, quindi 500 chilometri, insomma. Ecco, perché la vostra ricerca, le vostre ricerche, le state conducendo proprio nel mare di Ross? Ah, il mare di Ross, come un po' tutta l'Antartide, è un laboratorio naturale, nel senso che è una zona molto sensibile al clima, alle variazioni climatiche. È una zona molto remota, quindi dove l'influenza antropica non c'è, e quindi si riesce a capire qual è la variabilità naturale, perché sappiamo che il clima adesso sta cambiando, ma anche in passato, prima che ci fosse l'uomo, aveva comunque delle variazioni, le oscillazioni glaciali, interglaciali, e queste erano dovute proprio al fenomeno naturale, e quindi è importante capire adesso, nel momento che stiamo vivendo, cercare di capire quanto è dovuto all'uomo e quanto è dovuto alla variabilità naturale, quali sono i meccanismi naturali che controllano il clima. Certo. La nave quanto è grande? Come possiamo immaginarla? Poi certo, magari avremo senz'altro un'immagine sul nostro blog. Ma è relativamente piccola, è 72 metri di lunghezza. È piccola perché è fatta apposta per acquisire dati sismici, e praticamente quel tipo di rilievo che conduce anche l'industria petrolifera per vedere sotto il fondo del mare, come una radiografia di quello che c'è sotto il fondo del mare. E questo si fa mandando delle onde acustiche che dopo vengono riflesse dal fondo e dagli strati sottostanti e ricevuti e registrati da noi. Quindi siccome c'è questo rumore, questo suono che è molto importante per noi, è importante non produrre altro rumore, o meglio, il meno rumore possibile. Il minor rumore. La nave piccola è molto stretta per fare proprio, per fendere le onde e fare il meno rumore possibile. Tra l'altro non è una nave rompighiaccio. No, è una nave a chiglia rinforzata, quindi può andare in zone dove c'è ghiaccio, toccare dei piccoli pezzi di ghiaccio, rompere il ghiaccio marino molto sottile, ma non rompere il ghiaccio spesso. Ecco, che tipo di laboratori ci sono a bordo che vi consentono di portare avanti le vostre ricerche? Ah, diciamo che sono tre le metodologie principali. La geofisica, che sta un po' alla geologia come la radiologia sta alle altre scienze mediche, nel senso che è una cosa che permette di vedere indirettamente quello che c'è sotto la Terra, così come la radiologia permette di vedere quello che c'è dentro il corpo senza esatto. Poi c'è la geologia, cioè prendiamo dei campioni di sedimento di terreno e quindi possiamo analizzarli e studiarli. E poi la terza disciplina è l'oceanografia, e quindi studiamo le masse d'acqua con delle sonde che misurano le proprietà fisiche o anche delle bottiglie per campionare l'acqua e misurare le proprietà chimiche. Quindi queste sono le tre principali metodologie che adottiamo. Quanto starete in quella zona? Più o meno 60 giorni da quando siamo partiti e quando torneremo. Siamo partiti da Hobart in Tasmania, quindi in Australia, e torneremo invece a Christchurch in Nuova Zelanda 60 giorni dopo la partenza, quindi siamo partiti intorno al 15 gennaio e ritorneremo il 15 ottobre. Ci vogliono una settimana, 10 giorni solo di tragitto da questi paesi fino al Mar di Ross, perché c'è molta strada e soprattutto c'è sempre il mare in cattive condizioni, perché c'è sempre le tempeste, anche venendo in giù abbiamo dovuto seguire un tragitto un po' articolato in modo da evitare le tempeste principali. E ci abbiamo messo appunto una dozzina di giorni per arrivare. Però nel mare di Ross l'acqua è abbastanza calma, siete un po' protetti oppure lì il mare è sempre brutto? Allora, in teoria è più protetto, o almeno questo era quello che si è sempre saputo, quello che abbiamo sperimentato anche noi negli anni precedenti, è appunto perché c'è questa cintura di ghiaccio che un po' protegge la parte più interna. Quest'anno, col fatto che non so se è dovuto a quello, ma il fatto che si è sciolto tutto questo ghiaccio marino, è tutta libera la superficie del mare, e i venti non vengono frenati da niente, e per cui c'è un sacco di onde, quindi noi stiamo effettivamente un po' ballando in questo momento, si olla spesso anche oltre i 25 gradi di inclinazione, e in queste condizioni non è facile né vivere e neanche lavorare. Gli strumenti o non possiamo usare quelli che dovremmo mettere a mare dietro la poppa, o quelli che abbiamo a piglia, e quindi non c'è bisogno di fare nessun movimento, però ricevono molto rumore. Michele Rebesco, voi praticamente state quindi cercando di ricostruire che cosa è avvenuto in epoche passate, lontanissime anche, caratterizzate da condizioni simili a quelle previste dagli scenari più pessimisti, parliamo di scenari sul clima del futuro. Sì, esatto, diciamo che la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che si prevede sarà intorno alle 500 parti per milione per la fine di questo secolo. Se noi vogliamo trovare un analogo bisogna andare indietro nel tempo, molto indietro, bisogna andare oltre i 3 milioni di anni fa e anche prima, e quindi dobbiamo cercare appunto nel passato molto lontano per trovare un analogo alla situazione attuale, al clima che incontreremo in breve. E quindi quello che cerchiamo di fare appunto è di studiare i meccanismi di quando del clima, quando c'erano queste condizioni molto tempo fa, e contemporaneamente, questo con la geologia e la geofisica, e contemporaneamente invece con l'oceanografia, di vedere un po' il cambio in atto, cioè misurare le correnti e le masse d'acqua, come stanno aumentando di temperatura, come circolano, cosa sta cambiando, insomma. Buona ricerca. Si mangia bene a bordo? La cucina è napoletana, si mangia bene, sì, direi che di quello non ci possiamo lamentare. Però i piatti vanno un po' da una parte all'altra. Sì, alle volte bisogna avere una mano per tenere fermo il bicchiere, una per tenere fermo il piatto e piantare bene i piedi per terra, sennò anche la sedia si muove. Non è banale, anche per dormire fino a un certo punto si viene cullati, dopo si rischia di venire scaraventati fuori dal letto. Insomma, non avete di che annoiarvi a bordo della OGS Explora. Michele Rebesco, noi le auguriamo buon lavoro, buona ricerca, arrivederci. Grazie, buona serata. Ci sono le strade, ci sono le automobili, vediamo che cosa ci raccontano. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo in collegamento con Nicola Fedele e Davide Borrillo. Il tema è quanto mai di attualità, nel senso che nelle ultime settimane si è parlato molto di questo gigantesco truccone che fanno i bagarini, insomma coloro che comprano i biglietti di qualunque cosa. Non solo concerti dal vivo, quindi. No, di qualunque cosa. Pare che nei teatri di Broadway praticamente non si riesca più ad entrare perché ci sono biglietti per spettacoli fra 6 mesi venduti a 1500 euro, cioè delle cose micidiali. Questi ragazzi di Napoli con la loro società BluNet. Esatto, sì, la BluNet SRL. Questi ragazzi di Napoli hanno inventato un algoritmo, perché praticamente è questo che è alla base del tutto, che riuscirebbe ad evitare, Simona, questo bel problemone. In effetti, anche in una conferenza che si è svolta a Milano, proprio Noi Secondary Ticketing si intitolava, si è parlato come una probabile soluzione per sconfiggere il bagarinaggio online, si è parlato proprio di questi biglietti nominali con la foto di chi acquista il biglietto. E questa, ce la spiegate? Certo, sì, alla conferenza in realtà è venuto fuori che una soluzione al problema senza dubbio è quello del biglietto nominale, e poi è stata aggiunta la stampa della foto sul biglietto per assicurare che il portatore del titolo ne sia il reale proprietario. Partiamo da questo per proporre una soluzione ancora più innovativa, che è quella di mettere i dati del proprietario del biglietto, e quindi nome, cognome, magari la sua foto, quindi la sua impronta facciale, all'interno di quello che noi chiamiamo Blue Code, che è un'evoluzione del codice a barre. Vediamo proprio il processo, com'è che avviene. Uno va a comprarsi un biglietto o lo compra anche online? Esatto. Nel momento in cui compra il biglietto, lo può comprare anche online, quindi compilando una form con i suoi dati personali, e alla fine dell'acquisto potrebbe semplicemente scattarsi un selfie inviando quello che è la sua foto all'emettitore del biglietto. In modo che la foto dell'acquirente viene direttamente inserita nel biglietto con cui poi mi presenterò al concerto o allo spettacolo di turno. Esatto, la foto assieme ai dati dell'evento e ai dati della persona viene, attraverso questo algoritmo che abbiamo sviluppato, sintetizzato e memorizzato all'interno di questo codice. Quel codice quindi è il rimedio che voi proponete contro la contraffazione? Assolutamente sì, questo codice, che è una tecnologia appunto sviluppata dall'ingegner Fedele insieme agli altri ingegneri della società, e che è protetto da un brevetto, è la nostra soluzione al problema della contraffazione e del fenomeno del secondary ticketing. Dicevate benissimo prima che si può adattare, o meglio inserire, in numerosi mercati, tutti quei mercati dove c'è un problema oggettivo di contraffazione o di difficoltà di controllo. Quindi cosa succede? Io mi presento all'ingresso. Supponiamo che ci sia un operatore all'ingresso. Questo cosa fa? Con il suo smartphone? O apposito palmare. O un palmare dedicato, sì. Da come si vuole impostare il discorso. Lui non fa altro che scansionare il codice che comunicando col dispositivo attraverso un'app che è anche scaricabile per alcune demo dagli store Android e iOS. Ripeto, scansionando il codice, acquisendo appunto il codice, confronta il profilo facciale che appunto è inserito come informazione nel codice con la persona che si sta autenticando in quel momento. Quindi deve verificare la corrispondenza. E se non c'è un operatore? Il processo può essere semplicemente automatizzato ad un tornello, programmato per accettare un biglietto, eseguire la scansione, che in questo caso avverrebbe appunto in maniera perfettamente automatica, così come avviene negli stadi, e con un sistema di telecamere appunto sempre montato a bordo tornello esegue quella che è la scansione del personaggio, il riconoscimento facciale della persona che si sta autenticando in quel momento. come è stata accolta questa soluzione dal mondo dell'industria della musica dal vivo? C'è un vivo interesse, diciamo, sia per, se vogliamo, sia per lo scandalo che ha generato la questione del secondary ticketing, sia per un'oggettiva falla in qualche modo nel sistema di controllo, diciamo, degli accessi a grandi eventi come concerti e quant'altro. Diciamo che il grosso valore aggiunto è che noi lasciamo quasi intatta sia l'emissione del biglietto, il codice è una semplice stampa in bianco e nero, quindi può essere pure fatto online e l'utente finale lo può stampare a casa dalla stampante che ha, quindi da una comune stampante domestica. E la stessa cosa nella fase di verifica, noi manteniamo quello che è il user experience, perché adesso l'utente è già abituato ad andare con il classico QR code e farlo scansionare all'ingresso, quindi diciamo il valore aggiunto è nel fatto che il nostro Blue Code è capace di immagazzinare una quantità di dati, certo, molto più elevata rispetto a quelli tradizionali. Va bene, io direi che abbiamo spiegato tutto, la cosa ci sembra interessante. Sì, che abbia poi la possibilità di chiudere questo problema pazzesco. Un problema che in qualche modo danneggia sia l'industria della musica dal vivo e non solo, ma danneggia anche, penalizza anche proprio gli spettatori che si trovano ad acquistare dei biglietti a dei prezzi spropositamente più alti. Sì, e quindi non possono certo andare. Buonasera Nicola Fedele e Davide Borrillo. Buonasera a voi per l'attenzione. Grazie, buon lavoro. Ubora, un progetto che vede paesi europei e africani collaborare per un obiettivo di grande importanza per migliorare l'assistenza sanitaria nel continente africano. Apparecchiature biomedicali, quelle che vediamo nei nostri ospedali e negli studi medici, e anche quelle utilizzate nelle attività esterne di pronto soccorso. Naturalmente sono strumenti che vanno manutenuti, riparati e che è necessario saper utilizzare con grande precisione. Il progetto Ubora, coordinato dal Centro Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, partito a gennaio di quest'anno, ha proprio questa missione al centro della sua attività. Juni Madete, della Kenyatta University. So there's a need to develop equipment and devices that are specialized. C'è la necessità di sviluppare apparecchiature che siano anche specializzate. Abbiamo per esempio bisogno di strumenti che possano funzionare anche in condizioni di temperatura elevate, oppure in condizioni nelle quali la corrente va e viene o manca del tutto. Apparecchiature che siano portatili così che i medici possano portarle con sé quando devono raggiungere pazienti lontani. Questo perché gli strumenti che importiamo vanno bene nei nostri paesi, ma non per l'Africa. Kenya, Svezia, Estonia, Italia, Spagna, Uganda e l'azienda estone Agile Works sono i soggetti che partecipano al progetto. Ma fra le tante apparecchiature necessarie a una buona assistenza medica, quali sono quelle più importanti nella realtà africane? Sentiamo Filippa Makobore dell'Uganda Industrial Research Institute. From my experience, I believe that in base alla mia esperienza, devo dire che tutta la strumentazione che serve a fare diagnosi è quella che presenta i problemi più critici, perché serve a identificare con sicurezza una malattia. E questo impedisce terapie sbagliate. Per esempio, è importante identificare una polmonite in un bambino per passare a un trattamento con antibiotici. La seconda tipologia di strumenti che io penso sia molto importante è quella che riguarda la fase successiva, e cioè l'applicazione di una terapia. So that's the next stage of care. Ma come stanno le cose in generale, ovvero anche in altri paesi del mondo, per esempio in Asia, nei quali ci sono problemi sanitari di questo tipo e per i quali quindi l'esperienza di Ubora potrebbe essere utile? Sentiamo ora Mannan Mrida del Royal Institute of Technology di Stoccolma. A partire dalla mia esperienza nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il problema non è tanto avere delle apparecchiature, ma essere sicuri che siano utilizzate bene e che ne sia fatta la manutenzione correttamente. Questo perché non pochi ospedali hanno strumentazioni che ricevono da diversi percorsi di finanziamento. Ma ci sono finanziamenti per la formazione che riguardano il funzionamento, le riparazioni da fare e il procurarsi i ricambi. Il nostro principale obiettivo è la salute dei malati e non riusciamo a raggiungerlo. In modo particolare negli ospedali pubblici. In questi paesi come India, Filippine, Bangladesh, Indonesia, le strutture pubbliche sono poco costose per la popolazione, ma niente funziona in queste strutture. Nel sistema parallelo dei centri operativi, le apparecchiature funzionano abbastanza bene, ma sono centri molto cari e la maggior parte delle persone non ha i mezzi per potersele permettere. Potrebbe sembrare semplice un intervento che prevede un'attività di formazione. Dobbiamo sorprenderci, la risposta non è banale. Yes, you are right, you have reason to be surprised because this is something. Sì, ha ragione di essere sorpreso, perché questo non è un problema che non possiamo risolvere, perché abbiamo le soluzioni, sappiamo come fare la formazione e poi, grazie al cielo, abbiamo accesso a internet. E spero che grazie all'accesso alla rete e al costo molto basso dei cellulari vedremo finalmente una luce. Non abbiamo più la necessità, come prima, di raggiungere direttamente tutte le zone. Dobbiamo pensare che il 70% della gente povera che vive nei villaggi non ha insegnamenti di qualità, assistenza sanitaria decente, ma grazie alle nuove tecnologie per la comunicazione credo che sarà possibile portare conoscenze in queste aree e specialmente grazie all'assistenza medica e alla telemedicina si potranno migliorare le nostre condizioni. Una conseguenza del progetto Ubora è anche creare un'opportunità per aziende europee e quindi anche italiane. Artia Luvalia del Centro Piaggio è la coordinatrice del progetto, sentiamola. Sì, è vero, cioè questo progetto ha un impatto economico sociale importante sia per l'Europa sia per l'Africa. In effetti, se i paesi africani adoperano le regolamentazioni, norme europee, come noi speriamo e come sembra sia essere, aprirà il mercato per la vendita di prodotti fatti in Europa sul continente africano. A proposito di normative, l'Africa è abbastanza priva di legislazione su queste aree, quindi può essere interessante che prendano come modello un tipo di normativa europea che insomma mi sembra si possa definire piuttosto buono. Insomma. Sì, credo che l'Europa è all'avanguardia per quanto riguarda le normative e anche le mosse per armonizzare le normative sul continente europeo, cioè ormai siamo a un livello abbastanza avanzato e questo progetto, ma anche le altre azioni che fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cercherà di fare in modo che anche i paesi africani sono protetti dall'importazione di prodotti biomedicali che non sono all'altezza e che non assicurano, non garantiscono la salute del paziente. Ecco, anche questa volta ci restano 3 secondi. Per augurare a tutti e tutte buona serata e ricordarvi l'appuntamento con Mebius la prossima settimana, sempre sabato sera, sempre qui. Arrivederci.